Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Abbiamo raccontato e racconteremo storie di campioni del calcio, del tennis, del nuoto, dell'atletica, del pugilato. Abbiamo esplorato il mondo dello sport, abbiamo raccontato il sacrificio, la sofferenza, l'impegno, tutte le cose necessarie per raggiungere risultati importanti. Bene, oggi raccontiamo la storia di un uomo che gli sport li ha amati tutti, indistintamente, e che ha perseguito per tutta la vita l'idea dello sport come collante tra i popoli, al di là di razze, religioni, idee politiche. Uno che ha dedicato tutta la sua vita allo sport nel senso più nobile del termine, ha lasciato al mondo eredità preziosissime, perché se oggi parliamo e vediamo le Olimpiadi, quelle moderne, probabilmente, anzi sicuramente, lo dobbiamo al barone Pierre de Coubertin. Queste sono le note dell'inno ufficiale delle Olimpiadi, scritto nel 1896 da un greco, Spiro Samara, che lo compose in occasione della prima Olimpiade dei tempi moderni, appunto Atene 1896. Naturalmente da quell'Olimpiade sono passati più di 100 anni e sono cambiate molte cose, ma noi oggi vi racconteremo proprio le prime Olimpiadi e la prima grande esperienza di De Coubertin che cambiò il mondo. Tutto parte dal 1 gennaio 1863. Parigi, sontuosa casa di una ricchissima famiglia dell'aristocrazia francese, nasce Pierre de Freddy, barone de Coubertin, un bambino fortunato al quale non manca nulla: la casa a Parigi, il castello in Normandia, la possibilità di studiare, di praticare sport. Viene educato in una scuola di gesuiti e impara fin da piccolo che lo sport può e deve far parte dell'educazione e soprattutto della formazione di un uomo. È ancora aperta la ferita inferta al popolo francese in quel terribile giorno di luglio a Sedan. Ma la sconfitta sul campo non può distinguersi da una ben più grave disfatta morale. Gli intellettuali francesi sono abituati a sedere troppo spesso sul proprio cervello, dimenticando di coltivare il fisico. Lo ricordiamo, la battaglia di Sedan fu quella che decretò la grande sconfitta francese nella guerra franco-prussiana, l'Alsazia e la Lorena che tornano, rimbalzano e questa volta ritornano verso la Prussia. De Coubertin sostiene che la colpa principale di questa sconfitta sia, diciamo, nell'inedia generale che colpisce i nobili rampolli dell'aristocrazia, quelli che vivono senza mostrare interesse per la realtà e che trascurano la cura del proprio corpo e in qualche modo un impegno che potrebbe e dovrebbe passare soprattutto per le attività sportive. Sì, perché lui, che è appassionato di storia, di pedagogia, cerca di trovare un modo per scuotere la società francese che vede rammollirsi, abbandonarsi a se stessa. Ci vuole un colpo d'ala. L'occasione arriva una sera del 1892, quando, in occasione di un incontro dell'Unione delle Società Sportive Francesi, lui lancia una provocazione che cambierà il mondo: l'idea di riproporre in chiave moderna gli antichi giochi sportivi di Olimpia. E le celebrazioni religiose che si svolgevano nell'antica Grecia sfociavano poi in gare che contrapponevano atleti che si cimentavano nella corsa, nella lotta, nel pugilato. E tenete presente che la parola stadio, che oggi usiamo per tutti gli impianti sportivi, deriva proprio dallo stadion, che era una gara di corsa. De Coubertin lo sa bene perché è studioso del mondo antico e fermamente convinto che sia necessario utilizzare lo sport per unire i popoli e per facilitare lo scambio tra le diverse culture, che è esattamente quello che avveniva tra le antiche città-stato dell'antica Grecia. E con questo spirito De Coubertin annuncia ai rappresentanti delle società sportive scolastiche l'idea di ripristinare gli antichi giochi, invitando al confronto atleti provenienti da nazioni diverse. Al mio annuncio tutto avrei potuto prevedere meno quello che accadde realmente: opposizione, proteste, ironia o addirittura indifferenza. Niente di tutto ciò. Applausi, approvazione, auguri di grande successo. Ma nessuno aveva capito niente. In realtà nessuno poteva ancora capire l'entità del progetto del barone de Coubertin e ciò che di enorme sarebbe successo negli anni a venire in tutto il mondo. Un'idea, un colpo d'ala che cambia la storia del mondo. In quel momento tutti stanno immaginando una specie di fiera, un evento che mescola un po' di sport, di spettacolo, una rappresentazione in costume greco o romano organizzata tipo circo. Bene, de Coubertin ha ben chiaro invece il suo progetto, non si lascia scoraggiare, crea un comitato olimpico permanente, inizia a lavorare per instaurare una rete di contatti tra gli esponenti delle maggiori società sportive dei principali paesi del mondo e per rendere tutto ancora più ufficiale, lui, che sarebbe il segretario generale naturale, nomina alla presidenza naturalmente un greco e viene deciso che la sede della prima Olimpiade moderna sia naturalmente Atene. La data è il 1896. Il falco e il gabbiano. Naturalmente le difficoltà che de Coubertin affronta nel periodo di organizzazione della prima Olimpiade sono molte e l'entusiasmo iniziale c'è, ma poi le istituzioni sportive, tra le quali le università, non rispondono immediatamente all'appello del francese, anche perché alla base c'è una cultura di fondo che vede ogni singolo sport come un'entità a sé stante. Insomma, molti ritengono che sia inconcepibile organizzare una manifestazione sportiva che affianchi discipline così diverse tra di loro. Il lavoro diplomatico dei tre anni che precedono la prima Olimpiade è lungo e faticoso. De Coubertin comincia a viaggiare su e giù per l'Europa, va negli Stati Uniti, intreccia relazioni con società sportive, con personalità politiche. Insomma, alla fine qualcosa si muove. Nel corso delle riunioni vennero stabiliti alcuni principi fondamentali: la cadenza quadriennale, la scelta della sede, ogni volta differente, il principio del dilettantismo, l'elenco delle discipline sportive da inserire nel programma. E nel suo libro Memorie Olimpiche c'è il dettaglio, insomma, di tutte queste fatiche e anche dei principi che cominciano a venire fissati. E le varie discipline: nell'atletica si parte con la corsa breve e più lunga, il salto in lungo, il salto in alto, poi c'è la scherma, poi c'è la ginnastica, l'equitazione, il nuoto, il ciclismo, la vela, il canottaggio. Contrariamente alle leggende riguardo alla prima edizione, in cui si parla di corsa coi sacchi e altre discipline, sono molti gli sport presenti nel programma ufficiale delle Olimpiadi di Atene. I greci si danno un grande da fare, viene ricostruito lo stadio panellenico, anche se la pista di atletica ha ancora delle curve non esattamente regolamentari, la macchina organizzativa è lenta, però questo insomma è comprensibile, è più difficile capirlo oggi che le macchine organizzative continuino a essere lente. Allora insomma si stava partendo con una cosa totalmente nuova che il mondo non conosceva. E alla fine, il 5 aprile 1896, de Coubertin assiste con orgoglio alla cerimonia di apertura dell'Olimpiade che lui ha ideato, pensato, voluto e costruito, e la descrive così. Suonò finalmente l'ora in cui, nel restaurato e splendente stadio di Atene, il re Giorgio di Grecia decretò la rinascita della manifestazione, pronunciando la formula «Proclamo aperti i giochi della prima Olimpiade dell'era moderna». E i racconti di Pierre de Coubertin parlano del grande entusiasmo degli spettatori, delle gare, anche magari di qualche intrigo sotterraneo. E l'aspetto più importante comunque di questa prima Olimpiade è la presenza contemporanea di sport diversi nella medesima manifestazione. Questa è la grande novità. Lo stesso de Coubertin confessa che le prestazioni degli atleti non sono memorabili, non viene battuto nessun record mondiale in quell'Olimpiade. C'è però un lampo che illumina l'ultimo giorno delle gare, perché l'ultimo giorno c'è la maratona che celebra la famosa impresa di Filippide, che da Maratona arriva a Atene per annunciare la vittoria e che muore dopo aver detto la frase "abbiamo vinto". Insomma, siamo veramente dentro alla leggenda. La disciplina viene disputata per la prima volta lì in quell'Olimpiade, e per una meravigliosa regia del destino viene vinta proprio da un greco, da un pastore, Spiridon Lewis, che corre indossando il tradizionale costume greco e arriva al traguardo in ottime condizioni, diversamente da Filippide. Insomma, la maratona si dimostra, e lo sarà sempre, uno dei momenti più esaltanti dei giochi, uno di quelli legati di più allo spirito olimpico, quello che De Coubertin ha caldeggiato, che ha difeso con forza. Però naturalmente questo è solo una goccia in un mare che De Coubertin riempirà a poco, c'è ancora molto da fare. 13 nazioni partecipanti, 9 discipline sportive. Questi sono i numeri della prima Olimpiade di Atene del 1896. Naturalmente sono dati che sembrano ridicoli se li confrontiamo con quelli di oggi, ma sono sufficienti per l'epoca e per spingere il Comitato Olimpico a proseguire nell'organizzazione dei giochi successivi. Nel 1900 la sede designata è Parigi, anche in onore di De Coubertin, ma l'edizione coincide con l'esposizione universale, e questo avverrà anche nel 1904 a St. Louis. E questo non è un bene, perché alla fine le gare diventano un po' degli avvenimenti di contorno, e la causa principale di questo accostamento è finanziaria, perché la manifestazione ovviamente non attira ancora gli investitori, gli sponsor, gli atleti sono dilettanti, non possono percepire premi in denaro. Però in qualche modo le edizioni di Parigi e di St. Louis rimarranno in quel limbo tra lo spettacolo puro, e c'era, non so, a St. Louis era il lancio del nano tra le specialità, rimarranno in questo incrocio tra lo spettacolo puro e lo sport. Le cose cambiano radicalmente con le Olimpiadi di Londra del 1908. Per la prima volta alla cerimonia di apertura realizzò uno dei desideri del Comitato Internazionale. Gli atleti sfilarono ognuno all'ombra della propria bandiera, in divisa, e la sfilata inaugurale apparve trasformata. È un'altra grande svolta che non ci sono più le singole associazioni sportive a accompagnare gli atleti. Per la prima volta chi partecipa alle Olimpiadi rappresenta la sua nazione e non una società. Insomma, è un altro tassello importantissimo nella costruzione delle moderne Olimpiadi. A Londra gli atleti cominciano a essere 2.000, le nazioni sono 22, non so, Australia e Nuova Zelanda si presentano assieme sotto la bandiera dell'Australasia con 29 atleti. Le gare si spalmano un po' troppo, le Olimpiadi di Londra durano 6 mesi, da aprile a ottobre, ancora non c'è stata l'intuizione di concentrare tutto in un periodo più ristretto. Le Olimpiadi di Londra per noi italiani sono soprattutto l'epopea e la grande vicenda di Dorando Petri. L'abbiamo raccontata, insomma, la sua famosa maratona che lui vinse, ma che gli costò poi la squalifica perché fu aiutato. I giochi olimpici comunque hanno finalmente trovato un carattere, un'identità. Le Olimpiadi andranno avanti, c'è solo una cosa che può fermarle ed è la guerra. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia del barone Pierre de Coubertin, il nobile francese che, spinto dai suoi studi di storia e pedagogia, ma soprattutto dalla voglia di dare un'identità allo sport in tutto il mondo, vive il suo grande colpo d'ala e propone il ripristino dei giochi di Olimpia, che quelli che si svolgevano nell'antica Grecia, e ce la fa. Nel 1896 dà vita alle prime Olimpiadi moderne che si svolgono a Atene. Da quel momento ogni 4 anni il mondo si ferma per lo sport e piano piano aumenta il numero di atleti e di nazioni che partecipano. Alla base dell'organizzazione di De Coubertin alcuni principi che sono stati stabiliti allo scopo di rinsaldare i rapporti di collaborazione tra gli atleti di tutto il mondo, che partono da un principio di uguaglianza universale tra tutti i popoli della terra in nome dello sport. E allora non era poco. Chi partecipa ad una competizione, quale che sia l'evento, ad ogni livello, sa che ogni giorno che viene può vincere o può perdere, ma l'importante è che lui sia lì. Quando finisce si torna a casa, la storia ricorda i vincitori. Ogni uomo o donna su quella pista è grato per aver avuto la possibilità di essere lì, a incontrarsi in spirito di amichevole rivalità, uomo contro uomo, nazione contro nazione, di mettersi alla prova, senza paura, per poter dire ai figli e ai figli dei loro figli: io c'ero. Questo è un brano tratto dal recente film Race, Il colore della vittoria, il film che racconta la storia di Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino del 36, storia della quale noi ovviamente abbiamo già parlato. Da queste parole emerge il concetto più importante dello spirito olimpico, che l'importante non è vincere ma partecipare. Questa frase è stata attribuita a Pierre de Coubertin, probabilmente lui non l'ha mai detta con queste parole. È lo stesso barone de Coubertin che nelle sue memorie olimpiche racconta l'aneddoto ricordando un episodio avvenuto durante i giochi di Londra del 1908. Domenica scorsa, durante una cerimonia in onore degli atleti tenuta nella cattedrale di San Paolo qui a Londra, il vescovo di Pennsylvania si è espresso in termini molto appropriati. L'importante in queste Olimpiadi non è vincere, ma prendervi parte. Beh, poco importa chi abbia pronunciato questa frase, quello che conta è che è la frase fondamentale che racchiude lo spirito olimpico, l'importanza di partecipare, di confrontarsi con altri atleti senza pensare esclusivamente alla vittoria. E questo concetto cardine del pensiero olimpico ha fatto sì che poi spesso a passare alla storia siano stati i perdenti, quelli che non hanno vinto la medaglia ma che si sono distinti per quello spirito su cui De Coubertin ha costruito tutto il suo progetto. Un progetto che dopo le Olimpiadi del 1912 subisce uno stop a causa di un evento davanti al quale, ahimè, tutto il mondo si ferma: la guerra. Così l'edizione di Berlino del 1916 viene annullata e il Comitato Olimpico Internazionale si trasferisce da Parigi a Losanna, cioè nella terra più neutrale di sempre, cioè la Svizzera. E poi si ricomincia nel 1920 ad Anversa e alcuni paesi vengono esclusi, sono la Germania, l'Austria e la Turchia, cioè quelli che avevano dato il via alla guerra e dalla guerra erano stati sconfitti. E anche in futuro alcune nazioni non verranno invitate alle Olimpiadi dopo altri conflitti, dopo il secondo conflitto mondiale, per esempio quando si riprenderà a Londra nel 1948. E poi cominceranno anche i boicottaggi nell'edizione dell'80. Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali non andarono ai giochi in seguito all'invasione russa dell'Afghanistan e lo sgarbo verrà ricambiato 4 anni dopo alle Olimpiadi di Los Angeles dai paesi del blocco comunista. Insomma, le Olimpiadi diventano un'entità veramente importante e la politica spesso finisce in qualche modo col modificare certi equilibri sportivi. E poi arrivano delle Olimpiadi particolari, quelle del 1936. Il mondo non è ancora in guerra, ma è chiaro a tutti che la politica di Hitler non porterà certo la pace e sono Olimpiadi caldeggiate soprattutto da Goebbels, che vuole mostrare al mondo la grandezza della Germania per ottenere un riconoscimento internazionale della politica tedesca. E Goebbels si serve di tutto, anche di Leni Riefenstahl, che peraltro fa un film meraviglioso, Olimpia, è un film che ancora oggi è in qualche modo un caposaldo della cinematografia riferita allo sport. Però naturalmente il confine tra arte e propaganda è veramente sottile. Nel 36 peraltro compare la fiaccola olimpica con la corsa dei tedofori che trasportano il Sacro Fuoco da Olimpia alla sede ospitante, mentre dal 1914 era stata adottata la famosa bandiera olimpica, i cinque cerchi che si intrecciano tra di loro. La bandiera olimpica ha uno sfondo bianco con cinque anelli intrecciati al centro: azzurro, giallo, nero, verde e rosso. Questo disegno è simbolico. Rappresenta i cinque continenti abitati del mondo, uniti dall'olimpismo. Inoltre, i sei colori sono quelli che appaiono fino ad ora in tutte le bandiere nazionali dei partecipanti. Ma poi c'è un altro principio importante su cui si discuterà molto, è il problema del dilettantismo, perché De Coubertin all'inizio sembra un accanito sostenitore di questo principio, poi dagli anni 30 in poi ci si rende conto che è impossibile per gli atleti mantenere livelli di allenamento senza avere la certezza di un compenso monetario, insomma di non poter fare un mestiere e poi fare anche il campione olimpico. Insomma, bisogna tutelare gli atleti e questo apre un dibattito completamente diverso. Non esito a confessare che non mi sono mai appassionato riguardo a questo problema. Esso mi servì da paravento per convocare quel congresso destinato a ridar vita ai giochi olimpici. Avendo notato l'importanza che veniva attribuita a tale questione, principalmente dagli anglosassoni, non feci mancare un certo zelo in tal senso anche da parte mia. Il mio concetto dello sport è stato molto diverso da quello apparentemente prevalente. Per me lo sport è una religione con chiesa, dogmi e culto, ma soprattutto un sentimento che paragono a quello religioso. E poi arriva un'altra novità. Siamo nel 1924 in Francia, a Chamonix, è la prima Olimpiade invernale, e prima viene chiamata la settimana internazionale degli sport invernali. In realtà ci sono continue richieste da parte di tutti di inserire nei programmi olimpici alcuni sport come lo sci e il pattinaggio su ghiaccio. Quella del 24, insomma, sarà riconosciuta come la prima Olimpiade invernale, e anno dopo anno anche l'edizione invernale diventerà sempre più ampia, sia per il numero di atleti partecipanti sia per il numero di sport rappresentati. E questa è un'altra vittoria del barone Pierre de Coubertin. E poi nel 24 le Olimpiadi tornano nella sua Parigi, e però lui comincia a essere un po' âgé e decide di farsi da parte, di lasciare la presidenza del Comitato Olimpico, rimanendo presidente onorario, potendo così dedicarsi ai suoi studi storici e pedagogici. Perché 100 si dedichino alla cultura fisica, bisogna che 50 facciano sport. Perché 50 facciano sport, bisogna che 20 si specializzino. Perché 20 si specializzino, bisogna che 5 si mostrino capaci di grandi prodezze. Cizius, Alcius, Forcius, più veloce, più in alto e più forte. Pierre de Coubertin lascia al mondo moderno un'eredità dal valore incalcolabile, ha riacceso il sacro fuoco di Olimpia, e a questo fuoco, al calore di questo fuoco, oggi si riscaldano le nazioni di tutto il mondo. E il mondo celebra l'uomo del grande cambiamento quando nel 37 il cuore di Pierre de Coubertin si ferma per sempre, un infarto. Ma proprio quel cuore che ha mosso l'intraprendenza di un uomo che ha creduto fortemente in quella che all'inizio sembrava un'utopia, oggi viene custodito in un'urna posta all'interno di un monumento fatto costruire a Olimpia, il luogo da cui tutto ha avuto origine. Oggi abbiamo parlato di un colpo d'ala che in qualche modo ha cambiato la storia del mondo e sicuramente lo ha reso migliore, il colpo d'ala di un uomo che ha capito per primo che lo sport poteva essere epica, ma anche un modo per unire i popoli. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata. E poi potete seguirmi, interagire sul sito di Radio 24, oppure venire a cercarmi, a cercarci sui miei, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.